La piccola fiammiferaia. Questa è la storia di un passato non molto lontano. In una città viveva una piccola bambina. Era la vigilia di Capodanno e la bambina camminava lungo la strada con delle scatole di fiammiferi. Alcune le teneva nelle tasche del grembiule. Nevicava molto. La bimba dal tanto freddo si coprì il collo con i suoi splendidi riccioli. Era in città fin dal mattino e non riuscì a vendere una sola scatola di fiammiferi. Si avvicinava alle persone che camminavano per strada, ma nessuno acquistava una sola scatola di fiammiferi, perché tutti erano impegnati a godersi la vigilia. Camminando lungo un sentiero, la bimba vide molti negozi, pieni di torte e di vari cibi. Vide molti ristoranti, con persone che mangiavano cibi diversi, con candele che illuminavano i tavoli. La piccola bambina aveva molta fame, perché non aveva toccato cibo fin dal mattino. Affamata, riprese il suo cammino. Tremava come una foglia. Era notte e il freddo era piuttosto pungente. Non era in grado di camminare correttamente perché era scalza. Durante il giorno, la piccola bambina rimaneva seduta accanto alla sua nonna malata. Maria, potresti uscire e vendere le scatole di fiammiferi? Se riesci, tesoro mio, possiamo comprare del cibo. No, mamma, fa troppo freddo là fuori. Muoviti, sciocca ragazza! Vai e vendi tutte quelle scatole entro stanotte. Non devi tornare a casa fin quando non li hai venduti tutti. Vai, mia cara, altrimenti ti picchierà di nuovo. Mi dispiace tanto di avere un figlio così crudele. Non piangere, nonna. Io vado. Maria mise alcune scatole nel grembiule. Indossò le pantofole della madre e se ne andò. Fece del suo meglio per vendere i fiammiferi. Si avvicinava alle persone convincendole a comprare, ma nessuna di esse comprò. Stava calando la notte e Maria era molto affamata, ma ricordava le minacce di suo padre, quindi riprese il cammino. Vicino all'angolo della strada, si imbatté in un gruppo di persone. Oh, mi scusi! Sto bene. Vuole acquistare dei fiammiferi? Mi dispiace, piccolo angelo. Non mi servono. Maria, la piccola fiammiferaia, si accorse che era rimasta a piedi nudi. Si rese conto che una delle sue pantofole era rotta. Si mise a cercare l'altra pantofola. Era incastrata nella grondaia. Non riuscì a toglierla. Maria decise di camminare a piedi nudi. Prima di proseguire, controllò se i suoi fiammiferi erano intatti. Incontrò molte persone, ma non riuscì a vendere le scatole. Stanca, trovò riparo in un angolo tra due case e decise di riposare lì per un po'. Il freddo giunse al culmine. La bambina, con le mani conserte, guardava le scatole dei fiammiferi. Se accendo un cerino, posso avere un po' di calore. I pensieri riempirono la sua mente. Se mio padre mi vedesse, sicuramente si arrabbierebbe molto. Il gelo la costringeva a pensare. In fondo, come può sapere se accendo un solo piccolo cerino? Le dita della bambina cominciarono a gelarsi a causa del freddo. Prese subito un fiammifero e lo accese. E che sorpresa! Il fiammifero si trasformò in una grande stufa. La ragazza sentiva il calore. Mise la mano vicino alla stufa e cercò di afferrare quel calore. Era molto felice. Ma presto, in un attimo, un fiocco di neve cadde sul bastoncino e la fiamma svanì. Maria era delusa. La piccola cominciò a tremare di nuovo. Pensò per un attimo e prese la scatola dei fiammiferi. Scelse un altro fiammifero e lo sfregò contro il muro adiacente. Con sua sorpresa, il muro diventò trasparente. Adesso poteva vedere attraverso il muro. La casa era molto bella e ben arredata. C'era un camino e un focolare, e molte candele stavano bruciando. La famiglia che vedeva stava cenando. Poteva vedere cibo e dolci abbondanti pronti sul tavolo da pranzo, dove i membri della famiglia stavano chiacchierando allegramente, tutti seduti attorno al tavolo. Maria vide un pollo arrosto su di una portata. Tutto d'un tratto quella portata si avvicinò a Maria, che rimase nuovamente sorpresa. Vedeva che quel buon cibo si avvicinava verso di lei. Maria era molto affamata Era felice di vedere che il piatto venisse da lei. Il pollo si avvicinò al muro. Maria stava per mettere la mano dentro al muro per prendere il piatto. In un attimo, la fiamma svanì e tutto scomparve. La parete si richiuse davanti a lei. Non era più trasparente. Maria era molto delusa. Guardò il cielo, pregando Dio di aiutarla. Oh Dio, ti scongiuro, dammi il tuo aiuto! In quel momento vide una stella cadente. Maria ebbe un presagio. Dicono che quando una stella cade, qualcuno muore. La mia nonna è molto malata. Significa che ho perso la mia nonna! Era l'unica che mi amava! Piangendo, lei prese un altro cerino e lo accese. Magicamente le apparve la nonna dinanzi a sé. Oh, nonna! Sei tu! Sì, bambina mia, sono qui per te. Maria era contenta di vedere sua nonna, ma temeva che la fiamma potesse sparire. Pensava che anche sua nonna sarebbe sparita. Prese tutti i cerini dalla scatola di fiammiferi e li accese insieme. Brillarono, come una luce luminosa quanto quella del sole. In quell'ora della notte c'era una luce luminosa intorno a Maria e sua nonna. Maria guardò la sua dolce nonnina. Osservò quanto era bella, con il suo nuovo abito bianco. La nonna stava guardando con tenerezza Maria e le sorrise. Nonna, io sono troppo spaventata per rimanere qui. Portami con te, per favore. Sì, cara, ti porterò con me. Dammi la tua mano. La nonna teneva la mano di Maria e la prese tra le sue braccia. Entrambi cominciarono a volare verso il cielo. Maria era così felice che iniziò ad applaudire. Come ti senti ora, mio piccolo angelo? Oh, nonna! Non mi sento più affamata! Non ho freddo e non sono spaventata! Mi sento molto leggera! La nonna sorrise. Entrambe volarono tra le nuvole. C'era un sorriso innocente sul volto di Maria, mentre i raggi del sole illuminavano il suo viso. Molte persone si riunirono intorno a lei. Tutti guardavano Maria, sdraiata in un angolo tra le due case. Piansero per la piccola fiammiferaia.